Care ascoltatrici e cari ascoltatori, questo è TK che vi porta un'altra intervista dagli Stati Uniti. Questa volta si tratta di una campagna per la liberazione di un prigioniero politico dal nome di Maroon Schultz, la prima della serie di tre interviste. Si farà con la figlia di Maroon Schultz, che si chiama Teresa Schultz per l'appunto, e sono delle interviste che ho fatto tra il 21 e il 23 di giugno scorso del 2013, però per ragioni di precauzione, visto il percorso legale che si stava intraprendendo, ritenemmo che sarebbe stato rischioso mettere in onda queste interviste. Ma adesso che, come sarà spiegato in seguito, oppure spiegherà, si spiegherà anche da solo, la direzione delle carceri del Pennsylvania ha eventualmente rifiutato di togliere dalla cella di isolamento Maroon Schultz, e quindi facendo così, dopo aver promesso il contrario, riteniamo che adesso sia opportuno cercare di ampliare la battaglia per la sua liberazione, per la liberazione di Maroon Schultz a livello internazionale. Quindi adesso è il momento più opportuno per portarvi queste interviste, con la speranza che in molti ci daranno anche una mano per non solo liberare Maroon Schultz, ma veramente per far sì che ci sia la possibilità di eliminare una volta per tutte questa tortura in carcere chiamata cella di isolamento, che ha addirittura adesso l'attenzione del Commissariato per i diritti umani dell'ONU, e spero che anche in Italia si potrà ottenere un livello di interesse tale da destare l'attenzione dell'ambasciata americana, per esempio, e delle autorità qui nello Stato, cioè qui negli Stati Uniti, ma specialmente nello Stato del Pennsylvania. Detto tutto questo, inizio a tradurre l'intervista il 21 giugno 2013. Grazie tante per accogliere l'invito, Teresa. Allora, innanzitutto vorrei chiederti di parlarci di tuo padre e di farci una panoramica della situazione carceraria che lo circonda. Thanks for having me. I'm happy to have this opportunity. Vi ringrazio, sono molto contenta di avere l'opportunità di parlare di mio padre, Russell Maroon Schultz, che è un prigioniero politico qui negli Stati Uniti. Quello che intendo per prigioniero politico è quando qualcuno lotta contro ingiustizie o per qualcosa a cui ci tiene per motivi di difesa della propria comunità o membri della propria famiglia. Da questo punto di vista, Maroon è un prigioniero politico. Per spiegare meglio, occorre tornare agli anni 60 e 70. Le comunità afroamericane subivano il razzismo e la violenza dello Stato. Alle volte la polizia inseguiva, sparava e così uccideva gente afroamericana per la strada in quartieri afroamericani. Questa era la realtà vissuta nella città di Filadelfia, dove la polizia era anche particolarmente corrotta. Si sentivano addirittura dei poliziotti che dichiaravano cose agghiaccianti, come quella di aver ucciso il tra virgolette negro sbagliato e della loro volontà di tornare per uccidere quello giusto. Tutte queste sparatorie e omicidi di ragazzi neri colpirono molto Maroon e tutta la comunità. La comunità temeva molto la polizia, ma c'era comunque un forte desiderio di autodifesa e che qualcuno venisse avanti per organizzare qualcosa. Fu così che Maroon, con altri compagni, diede vita al Black Unity Council, il Consiglio di Unità dei Neri, nel 1969, che poi si unì al Black Panther Party, cioè le Pantere Nere. Quello che muoveva Maroon all'azione non era la vendetta o la voglia di far male ad altri. Era un grande affetto per la sua comunità che lo spingeva ad impegnarsi alla difesa della comunità stessa, dove regnavano disoccupazione, povertà e c'era una forte carenza di formazione e di alloggi decenti e abbordabili. Una volta, unitosi alle Pantere Nere, dovette poco dopo vivere in clandestinità come generale della Black Liberation Army, l'armata, cioè l'esercito di liberazione nero. Quando le stesse Pantere Nere infatti subirono una fortissima ondata repressiva e si dovettero riorganizzare. Questo accadde a Filadelfia come in tutte le grandi città. Il suo compito, cioè il compito di Maroon, divenne quello di difendere afroamericani e afroamericani dalle rappresaglie e dagli attacchi della polizia, almeno quanto possibile coi pochi mezzi a disposizione. È così che venne arrestato come generale dell'esercito, l'esercito di liberazione nero. Ha già scontato una pena di più di 40 anni, 20 di cui in cella di isolamento, rinchiuso 23 ore al giorno. Gli vengono imposti diverse restrizioni, come il lavarsi solo 3 volte la settimana, oppure il tipo di cibo che può avere. Per esempio, se riceve una mela per colazione, qualsiasi frutta fresca, una cosa peraltro rara, deve consumarla entro un certo periodo di tempo prima del pranzo. Se no, gliela tolgono. Ci sono tanti tipi di limiti che gli sono imposti, limiti che servono piuttosto a distruggere lo spirito. Anche nella lettura ci sono restrizioni, non può avere più di 10 libri alla volta nella sua cella e lui è un lettore appassionato e poi riceve anche molti libri da coloro che leggono i suoi scritti. Se ha già 10 libri e ne riceve un altro, è obbligato a cestinarne uno. Eppure non è mica colpa sua se qualcuno vuole inviargli un libro, specie perché si sa bene che la lettura può aiutare a far passare il tempo. Ed è proprio questo che gli impediscono di fare. Gli impediscono di fare il possibile per non impazzire in quelle condizioni di isolamento pressoché totale, 23 ore al giorno. Alle volte i secondini stracciano i libri in eccedenza del consentito proprio davanti a lui. Lo fanno anche se Maroon li prega di dare i libri ad altri carcerati. Ci sono tanti altri esempi di abuso di questo genere e di cui Maroon si sta preoccupando molto. Si preoccupa specialmente per i giovani che vengono portati in cella di isolamento, giovani ventenni che propendono a protestare vigorosamente contro l'incarceramento e si lamentano di non poter vedere i propri cari. Nel carcere di super massima sicurezza nella contea di Greene, nella Pennsylvania, vicino a Waynesburg, dove Maroon è stato per 16 anni, Maroon ha saputo di ben oltre 20 suicidi di giovani che si sono impiccati. Questi sviluppi hanno obbligato Maroon a pensare oltre se stesso e di preoccuparsi anche per le sorti di questi giovani neri che vengono portati in carcere. Una volta mi disse che questi giovani entrano in carcere con un'aria spavalda, come se fosse per loro una passeggiata, ma poi, dopo poche ore, o magari dopo 6 mesi, li vede camminare come degli zombie. La situazione in prigione è drammatica. Con l'imprigionamento di più di 2 milioni di persone e la diminuzione del numero dei secondini, stanno ricorrendo all'introduzione di sedativi o di farmaci ormonali nel vitto, cioè introdotti tramite gli alimenti, dei carcerati per ridurre gli impulsi sessuali e il potenziale di violenza tra i carcerati stessi, ma riducono i carcerati allo stato di rintronamento, sono inebetiti con l'assunzione di quei farmaci. Si tratta di un tentativo di controllare la gente tramite il controllo delle funzioni cerebrali. Mi fa pensare più in generale alla natura della catena alimentare o alla cibaria generale, come preferisco chiamarla. Quello che assumiamo è cibo manipolato, anche al di fuori dal carcere. A volte carne contaminata, vacche e galline imbottite di antibiotici. Se si pensa a quello che possono fare a noi, gente in libertà, cosa cacchio pensate si possano permettere di fare ai carcerati? Infatti, vengono trattati molto male. Per esempio, in passato i carcerati potevano ricevere pacchi di tè in polvere e gli ingredienti erano elencati, ma adesso non includo più nemmeno gli ingredienti sui pacchetti. Lo stesso vale per il servizio sanitario, ricoperto da medici frequentemente sull'orlo di perdere il certificato medico. Oppure hanno una storia di negligenza questi medici, negligenza medica. Nello stato della Pennsylvania sovente si ricorre all'assunzione di questi medici da passato più che discutibile. Questo modo di trattare i carcerati non è troppo dissimile da come il governo tratta milioni di bambini, donne, poveri, che negli Stati Uniti non hanno alcuna copertura medica. Le cose sono anche cambiate al peggio. Per esempio, in passato, in comunità urbane, raramente si vedevano pazienti con malattie mentali girare per strada. Venivano accolti in istituzioni pressoché idonee, lavati, vestiti, nutriti e sistemati in abitazioni dove potevano usufruire di servizi di cura. Di questi tempi, per esempio, Filadelfia o New York, ti vogliono far credere che i malati di mente non esistano più. Sono tutti stati perseguitati dalla polizia e così spariscono dalle strade, trovandosi ripari di fortuna poco visibili al pubblico. Però una volta presi dalla polizia sono sbattuti in carcere. Questo è il frutto di una politica nazionale scaturita negli anni 70, che da quel punto in poi ha portato alla chiusura delle istituzioni per la salute mentale. Così le carceri sono ormai sature di malati mentali a cui vengono negati gli aiuti più elementari come gli psicofarmaci. C'è stato un caso, per esempio, a Pittsburgh di un carcerato messo in cella di isolamento, un caso reso noto grazie al lavoro della Human Rights Coalition, la coalizione per i diritti umani, di cui si parlerà fra un attimo. Il carcerato implorò gli agenti di dargli una medicina, minacciando di suicidarsi. Stava proprio impazzendo, sparse le proprie feci sulle mura della cella, per esempio. Invece di procurargli lo psicofarmaco, le guardie lo portarono fuori dalla cella di isolamento e obbligarono altri detenuti a ripulire la cella. Lo rimisero nella stessa cella di isolamento e si ripeté la stessa cosa. A questo punto i secondini vollero che lui stesso pulisse la cella e il carcerato rispose che si sarebbe suicidato se non gli avessero dato la sua medicina. I secondini insistettero e, visto che il carcerato continuava a richiedere la sua medicina, gli fecero vedere come ottenere un cappio da una striscia di tessuto strappato dal lenzuolo. Gli fecero vedere come fare un cappio e metterselo al collo e come posizionarsi per saltare dal letto ed impiccarsi. E così si uccise davanti ai secondini, seguendo le loro istruzioni. Tutto questo è successo l'anno scorso, cioè nel 2012. Il caso è stato denunciato ai massimi livelli. Il Dipartimento di Giustizia, l'equivalente del Ministero della Giustizia in Italia, quello federale negli Stati Uniti, sta tuttora svolgendo le indagini su tutte le carceri della Pennsylvania. Infatti, questo omicidio non è un caso unico ed è uno dei casi denunciati dalla Coalizione per i Diritti Umani. Mi riferisco nuovamente a questa coalizione perché si tratta di un'organizzazione fondata da Maroon una decina di anni fa, dietro le sbarre, da una cella di isolamento. È diventata un'organizzazione a livello statale, coprendo cioè tutte le carceri della Pennsylvania, con centri a Philadelphia e Pittsburgh. La coalizione documenta qualsiasi tipo di abuso in carcere, quando fu commesso, i nomi del carcerato e del secondino. Si richiede dal carcerato una deposizione scritta e giurata da caricare sul sito in rete della coalizione. Prima gli si chiede se la sente di farlo, se ritiene di avere la forza necessaria per affrontare tutti i rischi di abuso che possono conseguire una denuncia e una lettera legale di monito rivolta alla direzione del carcere. Nella maggior parte dei casi i carcerati accettano i rischi perché si trovano in condizioni di abuso tali da non avere molto da perdere con una denuncia, affinché tale denuncia aiuti a far cambiare le cose. E le cose in qualche modo stanno cambiando. Per esempio, grazie alle denunce dal carcere di Pittsburgh, il Dipartimento di Giustizia, quello federale, è intervenuto e ha sgominato una banda di 8 secondini che violentava sessualmente i carcerati, sia i nuovi entrati che quelli già in carcere, e li costringeva a fare gare di lotta tra di loro. Alle volte il carcerato che perdeva la lotta veniva stuprato immediatamente dai secondini. Gli 8 secondini sono stati licenziati, ma mai portati in tribunale. Così il problema istituzionale non viene mai riconosciuto e si ricomincia da capo, con altri abusi. L'amministratore delle prigioni della Pennsylvania, John Wetzel, potrebbe mettere fine agli abusi una volta per tutte, per esempio rimuovendo i sovrintendenti delle carceri note per violenze contro i carcerati o per mancato adempimento alle norme penitenziarie. Tornando alla situazione di Maroon, se mi permetti di interrompere, penso che sarebbe di molto interesse sapere come Maroon è riuscito a fondare la Coalizione per i Diritti Umani. È stata un'idea geniale da parte di mio padre. Si tratta di un'idea che nasce dalle necessità concrete dei detenuti e delle loro famiglie. Una volta in carcere sono sommersi, eppure i loro familiari, da questioni mediche, finanziarie e quant'altro. Il concetto è di invogliare i tantissimi familiari a partecipare in modo attivo nella lotta contro le ingiustizie in prigione e per evitare che altre e altri finiscano dietro le sbarre. Si tratta di diversi milioni di persone direttamente coinvolte da fuori, visto che la popolazione carceraria supera i 2 milioni. Maroon quindi cominciò con l'aiuto di una donna che lo visitava, e così stabilirono il primo ramo della coalizione a Filadelfia. diede lui stesso il nome di Coalizione per i diritti umani alla neonata organizzazione, fondata nel 2001. È un'organizzazione che si prefigge l'eventuale l'abolizione del carcere come obiettivo finale. L'organizzazione si diffuse molto presto, non solo nella Pennsylvania, ma anche nel Texas. La coalizione è divenuta un punto di riferimento sia per carcerati che per i loro cari. Le famiglie dei carcerati, infatti, hanno molte difficoltà nel comunicare con gli amministratori, che sovente si rifiutano di parlare con loro o li trattano con disprezzo. Quando un detenuto scrive o altrimenti comunica ai suoi familiari che sta subendo abusi in carcere, i familiari cercano ovviamente di aiutarlo, facendo domande o esponendo denunce all'amministrazione. Sovente le amministrazioni ignorano tali richieste o addirittura minacciano i familiari che pongono anche le più semplici domande. La coalizione viene quindi a loro soccorso con assistenza legale o semplicemente come civili comuni per costringere le amministrazioni a rispondere a delle richieste e a indagare. I membri della coalizione si recano a qualsiasi carcere, dovunque sia, anche se il detenuto o i suoi familiari non hanno mai partecipato come volontari per l'organizzazione. Questa lotta comporta molti altri ostacoli. Bisogna capire che le carceri si trovano in paesini nella Pennsylvania rurale che si reggeva sull'industria del carbone e che sono stati devastati economicamente da decenni di crisi nel settore. I carcerati e le famiglie che riescono ad esporre denunce si trovano davanti a moltissimi ostacoli in più, una volta ottenuta l'opportunità di portare amministratori o secondini in tribunale. Ci sono gli stessi secondini che fanno una controdenuncia, dichiarando che il carcerato li ha attaccati con una barra di sapone e altre simili assurdità. Poi ci sono le giurie dei tribunali di questi paesini, in maggioranza composti da gente bianca, da ceti medio-bassi che dipende economicamente dagli introiti ricavati da queste carceri. È molto difficile ottenere sentenze favorevoli di fronte a giurie di bianchi, le cui sorti economiche dipendono direttamente dall'esistenza di un carcere. La coalizione interviene anche per questo motivo, per accertarsi di avere condanne corrette, anche secondo le norme ufficiali. Molte sentenze sono così state capovolte a favore dei carcerati grazie a questi interventi. È tutto per merito dell'iniziativa di Maroon, da una cella di isolamento, e le compagne e compagni che lo stanno aiutando da di fuori. Con questo concludo, perché devo prendere un autobus per tornare a casa. Grazie, devo proprio andare. Thank you.